Casalesi. Attenzione, 14. Hola. Hola, 1, 2, 3, prova. Canale 14, prego. Va bene lo stesso, Antonio, interessante lavorare. Sì, quello sì, tutto un altro lavoro a confronto a quello che facevo prima. Ci si abitua e si impara un altro mestiere, cosa vuoi che ti dica? Così adesso in questo momento ne so fare 4. Il viaggio ogni giorno lo fa. Sì, io mi alzo alle 5 del mattino, 5 e mezza partendo, e rientro la sera, dipende, a volte alle 4, alle 5, alle 6, dipende dal lavoro. 6, 6 e mezza, dai, massimo. E dove siete oggi? A Casamare? No, via... porca miseria, via, non mi la... è una parallela della via principale di Orbe, una parallela di via Aldomoro. Ho capito, Acciugavito. Ma non è quella zona della Confronta, della Consarcata? No, tutta un'altra zona. Diciamo lì i negozi, no? Una via principale, dunque non negozi, non ce ne sono, capito? Per darti un punto di riferimento. Kappa. E vabbè, comunque. Olbia, tu ci rivendi, eh? Comunque le più belle sono di quelle di Sassari, mi dispiace, ce n'è a Olbia, ma belle come quelle di Sassari ancora non le ho trovato. Kappa. Ma anche a Usi ce n'è una bella. Ehi, a quella Leoncino. Porca sai che non stavi pensando a quella? Tu mi hai messo così una bella diosi, mi è venuto in mente subito lì, tutto lì. O stavi pensando a un'altra? No, la battuta era su quella. No, perché ti ho visto un pochettino così fuori posto, appunto. Ma abbi sbagliato. Ragazzi, ho trovato. Ma che cosa che scapolona, se stai aspettando a lui? Sì, ma se non l'invita a ballare, caro, l'ha detto, se l'invita a ballare va bene, se no niente. Ma infatti se lui, diciamo, ha qualche giorno libero, ti organizzo, lui c'ha la macchina, se la porti a ballare viene, guarda, senza nessun problema, si profuma bene, si trucca, si fa buona e poi viene tranquillamente, questo te lo garantisco io. Dunque tocca di farsi avanti, tocca di un giro, è un uomo, no? Ma deve farsi la plastica per diventare buono. Lo so, ma lo sai cos'è già? L'abito non fa il monaco. Questo è vero, ma anche lui che vuole la sua parte ce va qui. Infatti, è come ti volevo dire, che non tutte le ciambelle escono col buco, dunque, ma con usato per la paga è sicura l'arrangiare. E vabbè. Poi quando sorride è peggio, altro che brutto. Santo Antonio mio. Senti, se mi paghi la discoteca, vabbè. Il discorso io quando l'ho visto l'ho presentato subito in uncino perché è normale, no? Ti vedi distinto. Io ho visto che lui non si è messo nessun problema, anzi, contento che pacca. Non ha fatto nessun ripensamento, sì, per lui i problemi non ce n'erano, dunque, contento lui. Sta lavorando, mi dice. Ah, buono, che sta facendo? Anche lui traga muro? No, sta facendo il custode al nido di Alghero, infatti mi pare che una notte gli facciamo una sorpresa. Perché no? Volentieri, vedi, questa è una bella idea, ci sto, Lo cerchiamo, speriamo che non ci spari. Si può fare benissimo, se ne so, un venerdì notte, perché no? Sempre giustamente coincidendo gli impegni di uno dell'altro, volentieri, guarda. Un'oretta lì, andiamo e gli rompiamo le scatole. Sì, anche di più. Sabato notte va bene, che di domani non si lavora. Sabato notte si può fare. Andiamo e ribussiamo la porta. Organizza il numero di telefono, ce l'ha, il mio, a me va benissimo. Ci mettiamo anche il cambiato. Tu, io non mi pare vero. Paga, la fai girare. Eia, bombolo. Eia. toccata. O oggi voglio di parlare in sardo, dai. Sì, ragazza, questo è il problema. Se c'è gusto di fare una cosa a voi, ti dice, ammazza tu! E poco ci rimane un bel strano, poi tocca dar da bere a lui, dunque noi siamo gli ospiti, dunque ci deve trattare bene. Ah, te ne rapportiamo a quella. E guardami, non dimmelo due volte, io ci sto già provando domani a dirglielo, Aiù, marrano, riportiamo a quella. Io sto dicendo, io domani come rientro, siccome c'ho il suo numero di telefono, la chiamo e vedo un po' di organizzare, speriamo che... E ce la faccio, comunque ci provo, volentieri. Ma noi iniziamo al grafo, fare una passeggiata e poi passiamo da lui vicino. Ma una telecamera porti tu, sì? Non so che farlo. Ehi, guarda, se funziona, guarda, tu registra, poi ci penso io. Mi lascio la piscina a pompa. Ehi, Leoncino, pa. Che ore so? Minimo saranno le 10. Cazzo, può essere all'ascolto allora? Non credo, no. Se sta lavorando, non sta seduto in macchina, no? No, parte alle 10, mi pare. Devo meglio, speriamo che non l'abbia acceso. No, alle 10 deve essere là, forse. No, alle 10 forse deve essere là. Arriva bene, mi. Arriva, si sente benissimo dal posto dove lavora. C'è veramente zona aperta, ma hai notato? Paole! Ma le cotolette di Claudio, quante erano grandi? Ma ne erano due? Cotolette di Claudio, ti ho mangiato due cotolette, sto venendo, ma quanto sono grandi queste cotolette? Ti stai mangiando due. Minimo, è la faccia della dieta. Ah, si è mangiato, il cordon bleu. Il purè. L'insalata e la pasta. E i gresini, una confezione, non un pacco singolo, una confezione. Non penso che mangi così, no, troppo ragno, Lui ha detto che era dieta, lui ha detto così, le sue parole testuali, poi? No, troppo magro e non mangia come dite voi, dai. Ah, non stiamo scherzando. Che fa? E se uno se mangia così, prima vede la panza, dopo ve l'ha detto. Comunque, lui ha detto due cotolette, poco fa è entrato un altro, avanti. Detto già, piccolo era. No, ci ho fatto caso, avanti, chi vuole entrare? Sì, niente, ciao Gianni, mi ha ascoltato. Ciao anche gli altri amici. No, ho detto, attenzione, era vicino che c'era la cucina a pompa. Paga, mi devo fare una scarpetta. Se riesce troppo dopo. Sì, solo. Paga. Ciao anche a te comunque. Mi hai sentito, vai. Così, in ascolto o vuoi entrare? No, veramente io sono in ascolto, sto facendo un lavoretto, sono entrato così intanto per l'altro battuta. Comunque, buonasera a tutti, Franco la sosso. Ciao Franco, buonasera da Barracuda, se mi senti? Ah, che ti sento Barracuda, ti ascolto molto bene, ti ascolto. Ah, perfetto, avanti Bombolo, se lo copi l'amico di Sorso. Ho voglia che lo copio, sotto di Franco. Ciao Bombolo, me l'ho ascoltato, anche a te ti ascolto, segnale di 5, radio 3, dove tutti sono fuori. Avanti Gianni. Kappa, a me mi ascolti. Cos'è invece? già a me mi arriva 3-4, diciamo, come segnale basso, la radio è abbastanza, la radio la sento buona, sono disturbata, non so se lo fa anche a te già. Come gli sto dicendo, non è lì, no? No, rimane disturbata, ripeto, anche se da parte mia il segnale è basso, la radio è buona, ma disturbata però. Non so il motivo, perché così, diciamo, prova a cambiare il microfono, vedi? Fai questa prova, vedi un po', poi si crea anche il microfono, così è compatibile con la radio. Mi sa che si ripete con DM1000 l'altro giorno, quando si è sentito, vero? Capo, lo sto usando adesso, guarda, l'ho appena lasciato. Ma no, non sta facendo anche con questo, secondo me la radio. Adesso ce l'ho questo qua. Ah, ho capito, adesso è chiara la radio. Sicuramente avevi qualcosa attaccato. Sì, poco fa sì, c'avevo leggermente una cazzata. Ma ti fa la radio sporca, sporca. È sporca la radio. Vai 30.000 volte quindi così. Capo, vai. Tu al limite dai, fai girare che attacco l'altra per vedere come va senza attaccare. Avanti, Barracuda. No, da parte mia è arrivato Santiago di 1, con un po' oscillante il segnale, ma anche prima. Sì, la radio è migliorato, però è bassissimo, bisogna vedere che antenna sta usando, cos'è, in condizioni critiche. Ma mi sembra che abbia una manto, ma che abbia messo la manto. Se ha messo la mantova dovrebbe rendere di più. Io la sento veramente basso. Da parte mia è Santiago 1. La radio è buona, il segnale è bassissimo. A te quando ti arriva? Giustamente tu sei più vicino a lui in linea d'aria. Sì, c'è la mantova, però diciamo che è un po' nascosta anche per Sassa lì e un po' in basso. Dovrei sollevarla un bel po' per uscire meglio. Comunque il motivo è l'antenna, è strano, sorse abbastanza vicino a linea d'aria anche a Ossi. Dunque sono anche in un buon punto, io dovrei tirare un po' di più i segnali. Ora dunque il problema è quello alla fine. Dai, comunque, lasciando perdere il segnale, la radio è buona, ti sento bene pur essendo basso, Antone. Adesso sto usando l'MD24, sto usando sempre con lo stesso apparato. Scusami un attimo, dimmi, Bombolo. Migliorato la radio? La tua sì. Capo, gli ho sentito la batteria che era esaurita. Adesso sei chiarissimo, proprio limpido, limpido, perfetto. Io ti sento benissimo. Anche il bip si sente meglio, sento, Ehi, a voglia che fischia. Capo, poco fa me ne sono accorto che quella batteria era a buttare. Va a cambiare, adesso va bene, dai, ce l'abbiamo un anno, c'era. Buono, cosa usi tu? Quelle da 9 volte? Sto usando l'M95. Uso poco l'M95, capito? Ma io ho sempre usato questo microfono, ce l'ho, guarda, ti giuro, minimo un anno e mezzo questa batteria. Da 9 sta sempre funzionando. Lo so, ma avrebbe continuato a funzionare ancora chissà per quanto. Ma siccome io sono un po' anche scrupoloso, allora l'ho cambiata. Ma a voglia, qualche cosa che non va, giustamente di prenderla, di cambiarla nuova. Sorso, stavi dicendo? Ecco. Ah. Via. Attenzione, Franco di Jesus. Sì, capo, dai, un attimo, mi sono allontanato. Mi sono. Pagato. Allora, quando la solleviamo questa antenna? Sì, guarda, quando devo fare il tutto, devo ancora fare dei lavoretti qua, devo fare, e quindi me la porto su, me la porto. Tu figurati che a lui si arrivavo, la io me lo riesci, senza niente. Beh, dipende dalle zone, come ce li hai, se ce l'hai di fronte, o magari c'è qualcosa che ti nasconde l'antenna. Beh. Mi lo fai, gli lo metti, un volto di questo. adesso tiro questa su, ci tiro questa, poi più avanti la prendo una nuova. Una nuova e ce la metto ancora, perché la zona che sono io è molto alta, sono, diciamo, una liberissima e una quasi. Paga, paga. Andare. Andare. Antonio. Andiamo, per una domanda a Franco. Tu se ti assillo un segnale da parte tua, come ti arrivo? Guarda, tu stai arrivando qua con un segnale di 9.10 e una bella radio di 5. Ah, perfetto, va benissimo allora. Teo. Tu sei a quello scala. Sosso per me è vicino, là. Vicino linea radio. Va bene così, Gianno, va bene. Che non va bene? E chi ne arriva a fondo scala? Va benissimo per me. Oh, e per me no comunque, ah, pazienza. Fatevi l'immaginare poi. Vabbè Antonio, tu sei a Ussi, sei anche più lontano di me. Non è che puoi pretendere di arrivare come me quando sei più lontano. Già va bene il tuo segnale, io a Puglia. Insomma sai, la mania di grandezza ogni tanto. Tu attacca Giorgino. Già attaccato. Poi si è qualcuna domanda. Video me no, sto scherzando. Comunque, vabbè, 1-0 per te, dai, non c'è problema. A parte se si possono mettere delle valvole americane, mi pare che sono russe. E non fanno andare di più. Lo so. Volendo si possono fare un sacco di modifiche, ma già va bene così, là. Imparate che ci sentiamo uno con l'altro. Senza stare ad attaccarci va troppo bene anche così. Piedini, i piedini devi modificare, le entrate dei piedini. Fare un po' di modifiche, giustamente, trovare la valvola giusta, che vada bene anche l'alimentazione, giustamente, che abbia il lineare in sé. No, già si possono fare un sacco di cose, ma guarda, sono contento così, va benissimo. Piccolo piccolo sono, comunque, va bene lo stesso. Paga. E sono comunque. Bene, va bene. Adesso la radio mia non me la scimola. Tu sempre perfetto, guarda, non dal giorno che hai dato quella sistemazione alla tua antenna, boh, hai fatto bingo. Appaga, appaga. Va bene, va bene. E prima che venga l'inverno salgo sul tetto e do una controllata, la mia. Tanto vedo che stazionali vanno sempre bene. Dal giorno che gli ho messo il grasso, controllo i tiranti, vedo un po' se in buone condizioni e la lascio sempre su, tanto non c'è bisogno di pulirla sempre, possono passare anche anni, dai, alla fine, finché non è stazionale l'antenna sta sempre funzionando, sbaglio? Vabbè, io l'ho pulita dopo 9 anni, immagina. E allora ne ha da prenderne vento e freddo, ce l'avrò un anno e mezzo, una cosa e l'altra. Ma il fatto che quella lì è più fina come antenna, magari più deteriorabile, capito? Ma nelle istruzioni c'è scritto che materiale trattato comunque per l'ossido e agenti atmosferici, diciamo, dunque non si dovrebbe né arrugginire né prendersi quella malattia dell'alluminio, dai, che si fora, si viene una specie di cancro alla fine, ce l'hai presente? Sì, si consuma più. Esatto, si fa una specie di schiuma secca, bianca, poi passi il dito e lì alla fine trovi il foro, ma come c'è scritto nelle istruzioni, poi già non costa niente dare un'occhiata e vedere un po' com'è. E basta zingare, avendo le bombolette per zingare. Bombolette di zingo, espulsi i colori e via. È zingato anche il palo, di modo che non sia uscito. Ma vabbè, il palo già è tranquillo, quello dell'acqua l'avevo messo, abbastanza grosso. Vedo un po' se è tranquilla, rimane così. Comunque, spostando di quei prodotti, non diciamo, non diminuisci la funzionalità dell'antenna? Non penso che... perché la zingatura non le dovrebbe fare nulla, perlomeno. Sul palo io gliel'ho già messo una volta. E ha durato quel palo lì, l'ho regalato, poi se l'ho utilizzato, non so, mica sono andato a Lucca o a chi. Però un pezzo l'ha fatto a Leoncino, questo ne sono sicuro. L'altro non so se l'ha fatto a Lucca, mi pare che l'ho fatto. Comunque, la zingatura la salvaguarda un verme. Sì, quello sì, sia quel prodotto che stai dicendo tu, oppure il grasso, la vasellina che sia, dai, so che la vasellina dopo un po' deve risalire e rifarlo di nuovo, o uno o l'altro la finirà, comunque vedo, se è tranquilla rimane così, a voglia. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo che mi sta chiamando Paola. Tornato con la febbre, brividi di freddo. Tensione alla frequenza, tensione alla frequenza. Ciao Gigi, buonasera. Buonasera a tutti, guaio di passaggio, l'ho acceso però, prima di andarmene a nanna, non so che ci sia. Comunque buonasera a tutti. Io parlo di Ussi, c'era anche Claudio. C'era anche Claudio, ma non sta mangiando. Ciao lui. Ciao Antonio Bombo, chi c'è da Sosso Vannino o chi c'è? Sosso Franco. Come Franco? Ciao Gigi, ben ascoltato. Ciao, ben ascoltato pure a te, dai. Qua sogno, dai, stavo guardando un po' di televisione e ho acceso appena appena prima di andare a collegarmi. Gigi, buonasera anche da parte mia. Ciao Antone, buonasera anche per te. Scusatemi un attimo, mentre mi sta chiamando mia figlia, arrivo subito. Capo Antonio, vai pure. Ah, c'era lui in cantina la televisione. Ah, poi in soggiorno ce l'ho. Ah, perché c'è... ho capito, dai. Ma cos'è cantina? A pulirla in fresco. No, pensavo siccome stai molto in cantina, pensavo che eri lì. Sono a volte sto... settimane, tutta la settimana che non c'entro. Ah, capo, capito. Ma sta cantando per un baracchino, si guarda la televisione. Capparroccia. Eia, eia, così è. Franco, io e bene, stiamo combinando. Ti sento bello pippante stasera. Io pippante, sono lo stesso solo. Come te ne interra, quasi? Ma te ne interra. Ce l'ho in basso, ce l'ho nel terrazzino. E finché non metto il pallone, adesso non faccio, se non ti mando i lavori, e poi ce l'ho detto su. Sentivo, sei quasi 9.30 qua, attenzione. Quasi 9.30, sei forse anche di radio, forse direttata in direzione mia, ma stai arrivando 9.30 qua, C'hai portate bianca 9, ma modulati c'hai picchi di 30, 9.30 sì qua, da me. Figa, dipende da dove sei tu. Io sono arrivata di Sosso, di quasi Senoli, e diciamo che sto usando, adesso non sto usando niente come potenza, sto usando solo quello del baracchino. Positivo, appunto paghi, sapete di cosa lo tendi dal barcone? A me vedi? Mi sa che non lo so cosa sia, però dovresti essere venuto vicino. Positivo, dai, da casa io se guardo vedo Sosso, vedo Signori e ti do così e mi vedi, se tu ti faccia la faccia e mi vedi, ecco perché mi arrivi così. Ma dove sei fra? Dove c'è la Sisa lì? Oh, negativo. Sono... hai presente tutta la via, quella via... Via via Giacomo Leopardi, mi pare vero, attraverso l'ultima di via Giacomo Leopardi, la di attraversa, all'epoca era l'ultima attraversa dei cenni di Passennari. Esatto, quello è la zona bassa, il sorso, quella. Poi c'è l'altra, la zona più alta, è la via Sardegna. Sembra piegata da voi prima non vira, anni fa, quando ero pizzinico non vira. Arriviamo evidentemente a Chivi. Beh, dipende da tanto meglio. Allora mi va giù, raga. Come diceva, la zivera mio zio in Chivi e nel momento non vera nulla, sono passato ultimamente a Sennari, ho visto che è tutto costruito, tutto fatto. Un prezzo prima era 30 anni fa, 40 anni fa, ma mento 40 anni fa che non era tanto. Non me la metto che fosse stato tante case, erano i servizi, le case erano a te, il nemico dove c'è da un consorzio a Triscia, era la via di mettere e poi verrà ancora, e non mi metto che venire neanche anche più in sopra ancora, la via Giacomo Leopardi è una, poi la venire un'altra ancora, e non mi metto che venire fosse neanche teatro ancora, delle persone all'epoca. C'è qualcuno che chiama sotto? Ciao Claudio, faccio un po' di piatto allora. Sì, buonasera a tutti. E chi è che chiama Sassari? Ehi, carbonaio, buonasera. No, Pinuccio. Stai facendo bene, Pinu? Forse Sassari qua non ti sente, no? Stai facendo bene? Già va bene, già va bene. Sentiamo 7, sì, radio 5. Aspetti che ti do qualche controllo, vai, che qua c'è un questo. Vai al canale 50. Proseguite, vai, Pinuccio, so io com'era prima, adesso io mi ricordo quando ero un ragazzo, dai. Sì, certo, dai. Mi dica Claudio, lo so benissimo. Ero pure io, so, quindi per basso spesso, per basso pure in camion, non sono in vettura pure in camion per basso. Sì, certo, lì ho sentito parecchie volte questo giorno. Positivo, pure la contravenzione ha giù pigliato, pure se non ha giù suonato la macchina. Ci va in Washington, da un matrimonio alla fila assusto, era l'isola di Santo Pantaleo, era la fila. Ma io sono andato nulla, non so, non mi piace, non sono mai, io dico, di matrimoni così non sono mai con la macchina, dico la verità, e non so con qualcosa, ma non sono mai. E io ho suonato, c'è parcheggiato, giusto, regolare, e cosa. Oh, tutte le macchine vengono parcheggiate, la contravenzione, ma rivita che perché è compreso, è stato parcheggiato, tutte le macchine, poi ha fatto la contravenzione a tutti, per suoni, aspetta, molesti nel coso pubblico, una cosa del genere. Ed io non ho suonato, ma nulla. Non ho suonato la tipa cosa, ma più ritrovo l'uplasso è staccato, l'uvile non suonava, ti puoi immaginare. Ed io mi ho preso la contravenzione e mi ha dovuto pagare pure. Ma quella non potevi confessare, ma sono lì, meglio lasciare, scusa, non mi andiamo in Gigi, hai compreso? Andiamo in Gigi, ha approfittato a pure la contravenzione a tutti, tutte le macchine imbarcheggiate, ma non parla di queste sotto che non veniva, chi è tutti i dischi nel giornato. Guarda bastardo, ce ne sono tanti di quelli, qua so. Avanti già. Scusate, vi devo salutare. Ci sentiamo alle prossime, buon proseguimento di serata da Barracuda. Antonio, buonanotte. Santa. Antonio, buonanotte. Antonio, ci sentiamo, dai, buonanotte. E io, buon proseguo. QSO. Antonio. Bravo. Se non stai uscendo, ti sei abbassato di colpo la radio, non sei uscito, capito, Fra? Tu che stavi parlando, ne cito uno basso basso proprio terra a terra, e penso che eri tu. Sì, perché c'era la portante. C'era la portante? Ma io so, sì. Forse io la sto uscendo. Scende, stai uscendo, là. Stai uscendo, avanti già, doppio ru. Antibombolo, la ricorsa, bandiera rossa. Yeah, eccomi qua, Gigi. Allora, chissà cosa la gente sa pure io, che una volta la sponsorizia non è beggiato per comprare pensionato tutte le gambe. Prima non ha fatto giornata, poi non è beggiato per poi fare contravenzione. So già, ma a me che penso dietro a me, e io non suonavo, non mi funzionava lo grasso, a dire la verità, o mi dava qualcuna bruciata, non ve la ammetto, non mi funzionava nemmeno a me la voce, ma ammetto, cavolo, poi c'è il problema, c'è la contravvenzione, attaccata la paravretta, la sbagaglia tua, no, forse me l'ha mandata a casa, non me l'ha attaccata la paravretta, me l'ha mandata a casa. E dove ti ha mandato a casa? E dopo un comodo, sappiamo tutte le numeri della targa, compreso che poi ho tanto la guida, sappiamo tutte le numeri della targa e ha fatto lo verbale. Me ne so, niente che il giorno di festa hanno guastato un matrimonio, hanno andato indietro pure un'altra che hanno guastato un matrimonio, ma e si sono posti a firmare macchina contravvenzionate tutte, che sono roba a fabbrica. È positivo, dai. Ma io della Maddalena non la ho pagata però, manco per le palle. Me ne arrivavo dalla Maddalena e io non ero mai andato con questa macchina alla Maddalena. Questa Bruce mi è costata di più, non ne ho pagato. Cazzo, tu me l'hai visto con questa macchina, non mi sei mai andato. Già, l'avete avuto e no, ed mandava una Fiat 124 blu, e io gli ho detto, io 124 blu non ne ho 124 blu, io poi in realtà che la 124 c'era mia moglie, e io 124, dice, ma la 124 si è sbagliato 124, ma non è blu, è grigia, è la grigia, e se non può essere... Non può essere, non è 126, non è 124, non è blu, è di colore, è grigia. E lei mi ha detto 26, come ti fai tu a mandarmelo per bar? Cioè, fare chi si è abbigliato e si è attaccato al culo. E sa che non si vuole pagare così pagliate. Ah, 126 ci ha parlato pure. Ma dice questa cosa, poi sono andato in camion lì dalla Maddalena e sono andato a comandare il figlio urbano, no, lei così, no, non ho mandato niente, poi allora ci ho pensato, io dovevo farle una lettera con fotocopia di libretto che era, io non sono stato mai con codesta vettura nel loro comune, nella loro cittadina. E ne per caso io non sono in possesso di una Fiat 124 di colore blu, ma sono bensì in possesso di una Fiat 126 grigia che non è mai stata nella vostra, non ho avuto mai l'onore di essere, di soggiornare nella vostra cittadina. E allora se vi siete imbagliati. Mi è costato di più della contravvenzione, però non è giù pagato la soddisfazione, se paga fine. Sì, ecco. Vabbè. Che saprà mai a pagare le cose che non so, e questi sbagli li hanno fatti un bel di che si sono fatti questi sbagli, cioè si sente che sbagliando anche il coso di macchina, invece che molti decorano le targhe. Ho visto un programma in televisione di chi si di mi manda a Rai 3, cavolo, è stata questa signora della zona di Tempio, di questa zona vicino a Tempio, in Chivi, si è presente in Chivi, di Ura, da normalmente di Gallo Guira, di Saburo che aveva detto 26, e niente, si tiene tramite avvocati e cose di fare bagaglio verbale, non verbale, era un coso che era passato in autostrada e non aveva pagato mi si è passata dritta la roba, la gazzella non aveva pagato. Cazzo, della fotografia che l'hai mandato, della targa, e l'hai sbagliata la targa. Cazzo, è già cosa si vedia? Un paraurti lo paraurti di un rimorchio, dello camion, dell'articolato. Con i fari, con i triangoli, con le cose. Cazzo, si vedia che c'è cosa della busta, noi eravamo 126, dice, ma cazzo, ma uno dice se il 3-3, la chiamata in diretta e vede la persona la cosa che danno, che attribuire il trattamento danno che c'è cosa sia stata che sagato, dice voi, dice allora, dice, ma vi rendete conto, dice che è un paraurti di camion. Dice noi, dice abbiamo fatto un abbiamo indagato, abbiamo ringrandito la cosa della targa e hanno ripreso bene il numero della targa e poi ha fatto vedere che esattamente con neanche una motrice, è un tiro, un rimorchio di un camion. Vedete che è un rimorchio di un camion. Come fate a dire che una cecchia, mandargli a questa che c'ha una Fiat 126, a mandarle che un camion, vedete, c'è un paraurti di camion questo, non è un paraurti di 126. Vecchia, non mate, vecchia, Non mi manda la Lubrano, una cosa del genere, quando facevamo quei programmi di truffe, di cose, che sono andate, la pianeta tanto, tante cose, comunque sono stati quelli che mi mandano lettere a tagliare la targa giusta, perché poi quando l'hanno ringrandita, si è visto proprio il numero, che cambiava un numero, c'era un numero di differenza, c'era in questa targa, vedete che non è una Fiat 126 che risulta che è intestata a questa signora, mi credo non è uscita mai, ma te non è andata mai contento questa 126. Sì, e continuava cosa, lettere contro lettere, è dovuto andare che mi manda l'Ubrano, addirittura Eden ha risolto il problema, e poi si vedi a casa che era un paraurti, dice, ma quando mai, dice, voi continuate a insistere quando vedete che è un paraurti di un tir, non è una 126. Se vai a fare un raio, le fare, magari manco verrà passata in Chive. Assolutamente no, chi sa che non verrà mai passata. E onde vuoi passare a voi, cioè. Ma sai che è tanta macchina? Che tipo? Dai, fai girare questa ruota, altri 10 minuti che poi me ne vado andando. Avanti, Franco. Ehi, capo, dai, io vi lascio invece che sono entrato poco fa e me ne vado tutto andando, perché è una mattina, 4:30, e dobbiamo uscire. Dai, ce la ascoltiamo. Ciao Gigi, ciao Bombo, ciao Gianni, ce la ascoltiamo, dai. Buonanotte a tutti, avanti 10. Buonanotte Fra, dai. Ciao. Vai, Bob. Buonanotte Franco, ci risentiamo. Avanti, Gigi. Gianni, non so se c'è ancora. Gianni, ci si. Tanto che finisce uno, gradio, è passato con Pinuccetto. C'era entrato Giuseppe, vi siete soprammodorati. E ciao Giuseppe, buonasera. Buonasera, Regi, tutto a posto, sì. Sentivo tutto a posto, dai. Tutto a posto, quando ieri mattina ti ci sentivo in coso, in Chilivani. Ciao Giuseppe. Non sulla quattro corsie, anche adesso sono sulla quattro corsie di diretto. Positivo, poi oggi ne ho sentito uno, uno e lo sentivo in oristano, penso come che quando lo ascoltavo allo stesso modo che l'ascolto qui da casa, se non dirti anche più forte, e lo sentivo oristano, che chiamava un altro personaggio, lo sentivo oristano. Ma, eia, buonasera Bombolino, se ti sei batti un colpo, cambio. Ci sono come vedendo i dominoche. Capa. Bene, oggi. Bene, mi senti? Ehi, già ti sento. Già ti sento, Bombolino, già ti sento. Direzione, anche sulla quattro corsie. Cambio. Pensavo che fosse, guarda come l'ascolto qua, la stessa cosa l'ascoltavo, e parlava di là, come si chiama, ma lo sentivo chiaro, guarda come l'ascolto qua, ed lo sentivo Oristano, sulla zona di Oristano. Io c'ero stasera su 4, sto parlando con Gianni Chiamonti, e stavo provando un amplificatore sul canale 4. Siamo passati in FM, poi Malatale, poi ho chiuso. Va bene, no, io non ti ho sentito, sono andato a risposta, non ci sono problemi. No, sicuramente non ero io che stavo ascoltando. Dai, buonanotte a tutti, ci sentiamo le prossime, chiudo, mi guardo 10 minuti e sentita intorno a mezzogiorno e mezza, l'una, così l'ho sentita, lo sapevo. Intorno a mezzogiorno e mezza, dai. No, non eri tu, però sentivo come la sera ascolto qua, se sono stessa maniera, capito? Io già l'ho sentito però sul 4 normale, dai, l'ho sentito. Ho detto, ma non è da Sassari, quello ho capito, però il paese di fronte a me. Io c'ho davanti, stazione via Milano, vai, ti ho sentito a Silico. Ah, dici, no, ma già ho capito che sei, c'è nel Gigi, il Budino, c'è Gigi, che c'è una zona micidiale, quello negli osso. È di fronte a me nel paesello, è una fortesh, poi quando il mare sta provando qualche amplificatore, qualcosa, già si fa sentire, non sono problemi. Va bene, dai, buonanotte a tutti di nuovo, baci e abbracci, Giuseppe, rimetto il microfono così ti ascolto e poi chiudo, dai. Ciao Bombo, Gigi e a te Giuseppe e a tutti quelli che stanno ascoltando. Buonanotte a tutti, avanti Giuseppe. Ma sì, va bene, grazie. Ti auguro la buonanotte e ce la risentiamo tutte le prossime, dai. Avanti Gigi, Vulcano. Ciao Clara, ce la riascoltiamo di meglio, io anch'io ve ne vado a Nanna che domani mi aspetta una brutta giornata qua in zona, ma bruttissima però. Devo trabaccare a turno opposto domani, dai, devo fare un po' di viaggi vai e vieni al porto, devo fare un po' di viaggi domani. E mi aspetta una giornata un po' tribola domani. E a capa. Stavo dicendo, l'altro giorno io da via Milano con la Stormo 27 ti ho sentito a Cilico. Positivo, dai, positivo. E dipende anche dalla posizione, te lo sto dicendo. Dipende dalla posizione, secondo come ti trovi la posizione per arrivare, capito? Perché c'è, per esempio, Palchetto, per esempio, per la zona di... E mi è capitato a me a Sorso, andando a Sorso, entrando dalla parte dietro di venendo da Castestato, e di sparirmi, proprio Falchetto devo ascoltarlo proprio, di sparirmi quasi zero, capito? Invece io se vado verso, ma com'è, vado da Sassari verso Cagliari, che arriva a Bomboletta. E guarda, lo conoscono tutti, lo sentono tutti quando parla Falchetto, perché è libero, se a Campera, dai, se cosa intende, arriva a Bomboletta, pure a Paracchino. E poi perché lui è positivo, quella zona gli è positiva, anche per Torres è positivo, però se vai per andare verso Castestardo, no, non è più positivo. E così è, Leoncino! Sì, mi fa morire! E io, dove sei arrivato? Al libro tra Sentiera e il lago di Pares. Cappa, non ho nessun problema a sentirti, non so se senti a me tu. Cappa, stanno andando piano perché sono appena le 10 e mezza, devo essere lì alle 11 e qualcosa, dai, ma sto piano con calma. Gappa. Sì, non ho problemi ad ascoltarti, per il momento sei 5, in questo baracco che è un pochettino secco. Non ci sono problemi, tu non problemi, hai capito, non c'è nessun problema. Già ti ascolto, rientro tirati fuori, dai, cambio. Da capa, Luigi, lo senti? Già lo credo. Se non lo senti tu, non lo sento neanche io. Scappa. Avanti per Leoncino. Ci ho decaduto. No, a me mi sta arrivando ancora a segnare il posto, dai, a segnare da 7 anche 9 a volte spicchi. E lui è Leoncino. Ma no, lui è già arrivato bene qua. Scappa, vabbè. Di uscita è più, sai, capisci a me, no, la segretaria e che c'è quei vatti là, cambio. E voi? Buonasera. Va bene, io sono solo per attivare. Buonasera Walter. salutate a Vulcano, non so se mi sente. Buonasera, sono entrato per salutare, buonasera a tutti. Vabbè, se non ti sento io, mannaggia la musica. Chi ti può sentire a te? Non lo so, non è che sia una stazione forte questa, Baracchino la difesa. Sì, ma essendo vicino, tu ti puoi immaginare di segnare essendo vicino a me. Non so, tu ne arrivi 9.30. E tu altrettanto mi stai segnando così, 9.20, 9.30 anche tu. E dunque non è così forte. Che di più, ma io non l'ho mai visto andare, dicono tutti 9.40, 9 non so cosa. Io non l'ho mai visto andare oltre 9.30, non l'ho mai visto, lo dico la verità. No, io sì, anche 9.60 qua. Ce l'ho visto. Sto usando il Kenwood del 4.30. Positivo, positivo. E io non lo so, i baracchini forse fanno di meno. Non lo so, questo neanche arriva a fondo scala, guarda, non arriva. Non supera Santiago 9, Modolatti, questo qua, si può immaginare. Stai usando come si chiama? 48. 48 è questo, da. Uno di quelli. Vabbè, non smettere, fanno ridere quelli. Sono troppo piccoli. Leoncino, mi senti tu, sì? Cappa, buonasera. Cappa, sono vicino oggi di Vulcano, dunque dovremmo avere più o meno lo stesso segnale. Anche riesco a tirare fuori. Dice Valerio. Ehi, è Valerio, il cugino però Walter. Cappa. Si chiama Rini, Buonasera. Buonasera. Chi era l'altro? Tu ne ho Bombolo. Bombolo, da te differenza c'è di segnale tra me e Gigino Vulcano. Ma se arriva comunque tu sei più alto di Luigi, sei molto più alto. Capo, e dove ti arriva in quella zona? 8. Già basta, già va bene. Anche più robusto di meno, sono più alto. Soprattutto. Vabbè, questo Smith è un po' varo in AM. In FM già vedo che va la manetta. Comunque, 8. Vulcano arriva a 9.30 e l'altra stazione in macchina con questi B dal 4 al 6. Perché fa già basta, dai. 8, sono più che sufficienti. Perché non è che abbia grande antenna io, però dalla veloce già passa. Che antenna stai usando? Qui oltre la macchina è una 2000 turbo della Sirio. Se va bene, se va bene allora. Chi è l'altra stazione di sotto? Ora c'è la stazione in macchina. C, non sono. Ah, ho detto, mi sta arrivando la radio 5, il segnale 9, amici musici, mi capito, vado. Ciao Leonci, sono vicino a Gigi, dovremmo avere più o meno lo stesso segnale, io sto andando con 30 watt però, non lo so Gigi. Ma io ho superato qua, ho superato tutto bene, adesso sono all'incrocio a strada della Monza, hai capito, per figlia, per la zona lì, per la zona lì. Sì, ti sento benissimo, avanti Gigi. Sì, ma io sono di baracchino con, non lo so, saranno 10 watt, non lo so, ma anche 15 può darsi pure, però non sale molto lo smith, non ho capito perché, non mi sale di portante, c'è un Santiago 7 di portante bianca e i picchi sì, mi sembra siano positivi, però sta salendo un parecchio, non lo so perché, ma non va bene, adesso non me lo ricordo se questo doveva andare un po', no, certo la voce già sale, vedi, sale di più quando modula, non lo so se sta andando bene l'attacco ogni tanto per farlo scaldare. Ciao, avrei un po' di stazionarie. Ci non penso che ci sia stazionare, no, non credo, bro. No, non penso che ce ne sia, se sarebbe accesa la spia di cosa. Spesso anche le foglie. No, non penso che ci sia una stazionaria. Che cazzo, non si accende la spia. A Giuseppe. Ascolta, devo chiedere un favore. Se ti chiedi, sì, io te lo posso fare. Senza problemi. Che mi puoi fare? Quello, il doppio di questo qua, quello da 300, riesci a procurarlo? No, la 300 no, non è odio. Non ce l'ho il doppio di quello lì, ce l'avevo. E la 750 ce l'hai? 550, no, neanche quello, cioè il Piruccetto ce l'aveva, era in vendita qua, 550, c'era, era di Piruccetto e ce l'aveva provato via. Cappa, vabbè, nel caso ti capita, sì, ho la 300, oppure la 150, me lo fai sapere, dai, che vediamo un po' cosa fare delle modifiche e cambiarlo, capito? Adesso cosa c'è sotto, perché? Lo ce l'hai sotto adesso? Sotto c'ho l'accento, hai capito? È l'accento, quello piccolino. Tipo 7, quello piccolino, dai, quello grigio. Che 4-7 c'hai? K. Quello va bene, mio. Va benissimo, eh. Un giorno che si farà, quando sarà si farà. Sentivole. Se fischio il socal scende, modulati full, vedi, si alza la voce, arriva le come si chiama, vedi, sale lo smitte. Schiaffa. Quanto tempo vedrai che c'ho? Tu hai detto il capo di quello grosso? È grosso il capo, quello grosso c'ho io. È migliore. Ha perso questo, un dispetto. 213. Positivo, io tutto il consiglio quando ho fatto l'antenna e il coso tutto da, come aveva detto, Walter, e anzi poi mi aveva preso tutto lui, antenna, alimentatore, tranne il cavo che me lo sono comprato io, che mi aveva detto lui stesso di comprare quello lì, però antenna, alimentatore, mi aveva preso tutto lui, Walter. Chiappa, adesso ne è uscito un altro nuovo di capo che è una bomba. Va bene anche questo, lo so, sarà una bomba come ci sia, però questo va bene per il momento, va più che bene. Cioè, è pure io, non è che sono tornato, che voleva mettere il capo fine, perché lo so che cosa fa. Cioè, va bene sì, ma quello grosso è un'altra cosa, se tutto ti dà un'altra eccezione, ti dà un po' tutto meglio. Diciamo che c'è più durata nel tempo e più consistenza, perché il capo è più grosso, l'anima di dentro, il polo caldo, come lo vogliamo chiamare, quello è molto più grosso e c'è più resistenza. Essendo il capo fuori, disteso fuori, diciamo messo al caldo, al freddo, al coso, c'è più resistenza quello grosso, il 213 di quello RG58. C'è solamente quella la differenza. Perché poi se uno non ha di queste grosse potenze, no, basta, 213 basta e abbassa. Per come lo operiamo noi, ce n'è anche per i maiali, dai, fa più che bene. Avanti, parte. E soprattutto perché è una frequenza questa che non impegna molto il capo, anche perché non ha, le attenuazioni qui sono poche. Più sale di frequenza, più il cavo vuole buono, più performante, ma qua in 27 va bene qualsiasi cavo. Da Melchioni ho visto ci sono dei buoni cavi, anche doppia calza, ho visto dei bei cavi. 27 è anche esagerato, anche troppo. Il 2.13, anche se a 50 metri di discesa non cambia quasi niente. È allo strumento che vedi le differenze, ma allo strumento non noti niente. Va bene Gigino, devo chiudere, voglio fare un po' di gira dall'altra parte, vedere cosa c'è. Dunque vi saluto Falchetto, non Falchetto, Leucino, Antonio, ciao a tutti e ci sentiamo a domani, se c'è tempo già entro, ogni tanto già passo a salutare. Salutate a Fabrizio se lo sentite. Poi lo sentirò dall'altra parte fra un po', spero. Sentivole. Ciao Walter, mi ha fatto piacere, io da tante notti sentivole. Se capita qualche giorno ci prendiamo un caffè o qualche aperitivo assieme, se capita, se coincide. Va bene, dai, fatti un po' proseguo della serata, ciao Walter. E non spendere molto, un periodo che è meglio risparmiare, ciao. Beh, Walter, per un caffè e un aperitivo almeno qui, se non abbiamo i soldi per prenderci un caffè e un aperitivo una volta ogni tanto, allora siamo fottuti veramente. Tempo male. Va bene, quello già non è un problema, ma dicono che i tempi brutti veramente devono ancora arrivare, dunque vediamo un po' se arriviamo a livello della Siria a fare una rivoluzione civile. E con questi grandissimi passaggi, cazzo, siamo appena all'incominciando, siamo. C'è una vergogna. Allora, non lo sai, è così. Cazzo, è veramente una vergogna. Cazzo, avanno i buoni risparmiatori, ne vuole i biliardi di là, cazzo, per pagare, di passare. È un discorso complesso, ci sono troppi dipendenti, troppi, non è il caso della Sardegna comunque, dipendenti pubblici, è una cosa di smisura, che costano allo Stato e a noi, cioè a tutti, una cosa impressionante, e la gente non se la fa pagare perché avete le stesse armi. In Sicilia ci sono 30.000 dipendenti regionali, in Calabria ci sono 10.000 forestali più della Lombardia, che ha 9 milioni di abitanti contro i 2 milioni della Calabria, quanti ne ha 1.800.000. Sono numeri da paura, è quello, quello. Finita la pacchia. Ma come cazzo si fa a pagare tutte queste cose? Cioè, quelli sperperano di denaro. Cazzo, dobbiamo pagare noi, e poi i tagli fai? Cosa cazzo me ne frega? Tu fai i tagli. Cazzo, non è cazzo che il contribuente che ci spacca il culo la mattina e la sera, cazzo, deve pagare le cazzate loro. Andate al culo, dai, che no, non è vivere quello. E poi loro si abbassano e si prende. Invece sta a rompere le palle. Per forza. Monti già dice dobbiamo soffrire, lui prende solo 1.500.000 di euro. Dobbiamo soffrire, il figlio piglia altrettanto in un'altra banca, non so che lavora, capito? Se lo credo che paghi le tasse con quegli stipendi. Lasciamo perdere, è un discorso complesso e ti viene l'ulcera. Non volevi farlo adesso, comunque siamo tutti d'accordo. E la gente non paga, non perché le sono evasori, perché la gente deve mangiare. Non li dà loro a mangiarsi e a rovinarsi per dare i soldi a gente da bastardi come loro. Ciao, ci sentiamo. No, fa la gente non fa di no, non ha ancora capito un cazzo, che la gente non c'ha più soldi, perché loro glieli rubano. Ciao, ciao, vai, ce la risentiamo alle prossime, avanti lui. Ciao, Babbe, ciao, ciao. Ciao, Luciano. Io ti saluto anche io, ma domani devo stare stretto, dai, mi sono trattenuto anche troppo, sono entrato così, ho acceso così, una cosa veloce. Mi dispiace che sia rimasto solo, che non c'è altro nessuno a farti compagnia, però me ne vado a nanna, tu, mi devi scusare che domani mattina devo stare stretto. Io ti saluto e ti do la buonanotte. Ehi, non ti preoccupare lui, tanto mi pure io mi sto coricando, vai, buonanotte a tutti, ciao ciao. Ciao.